9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 6 di luglio. Oggi è un santo di quelli che si addice, in particolare al giorno successivo all'emanazione del decreto taglia spese, perché oggi è Santa Maria Goretti, quindi insomma sustinet abstinet, per così dire, usando un po' di un vecchio brocardo latino, o meglio della virtù violata, io devo dirvi che prima di entrare nel tema del giorno, che è quello del settore bancario, i problemi del settore bancario, i nodi che vengono al pettine nel settore bancario italiano, ed è meglio che ce ne occupiamo invece di continuare a lasciare la polvere sotto il tappeto, perché altrimenti continueremo a farne pagare poi i costi a famiglie e a imprese, cioè ai clienti, e i clienti già devono pagare il conto fiscale enormemente appesantito. Devono vedersela con l'anagrafe tributaria, devono vedersela con i clienti che nessuno paga l'altro, quindi almeno sulle banche bisognerebbe introdurre qualche ragionamento, e lo faremo nella puntata di oggi. Ma consentitemi prima di dire perché ho deciso di non fare oggi, come fanno più o meno tutti, come fanno la trasmissione concorrente su Radio Rai eccetera eccetera, un'altra puntata su il decreto taglia spese di ieri. E abbiamo deciso di farlo dopo che riflettevamo sul fatto che non riuscivamo a capire noi stessi ancora quale fosse il preciso ammontare, come devo dirvi, il dispiegarsi vero delle misure che vi sono contenute. Il loro esame è andato avanti fino a notte, però vi dico subito quello che poi in sintesi poi ho scritto per il Messaggero e che trovate poi sul mio Chicago blog tra poco. Si potrebbe dire, poiché io sono insieme ad altri un sostenitore dei tagli della spesa, che inevitabilmente a questo punto uno non può che dire: bravo Monti, finalmente l'hai capito, ci hai messo un po' di tempo, ma bravo Monti. Purtuttavia, se vogliamo essere persone serie, nel dire bravo Monti, provaci e fai bene a provarci, vista la centralità e la delicatezza di questa materia, non possiamo che premettere alcune osservazioni di fondo. Direte voi: sei sempre lì a criticare. Lo so, è un pochino la funzione che sento che tutti noi sentiamo di dover svolgere, per farvi riflettere, non per convincere. Nessuno di noi è depositario di alcuna verità, ma una radio come Radio 24 serve a porre dei problemi, esattamente innanzitutto sull'economia. Allora, guardate i giornali stamattina, per esempio. Ve ne sono alcuni, come in prima pagina, secondo me correttamente, La Stampa di Torino, di Calabresi, dice, perdonatemi, intervento da 7-8 miliardi. Cioè, analizza l'effetto contabile che il complesso di misure annunciate nel confuso decreto ha in termini annuali. Altri giornali parlano di intervento da 26 miliardi. Intervento da 26 miliardi, un conto è se sono, capite, si fa l'effetto triennale sommato delle misure, e se ne stimano quindi annuali a quel punto un po' meno di 9 miliardi invece che 7-8 miliardi come fa La Stampa. Altro conto è far credere, o credere davvero, siccome non si hanno abbastanza elementi, che sia un intervento che ha un impatto di 26 miliardi annui. Ecco, allora, prima osservazione: il governo Monti è arrivato a queste misure, secondo me un po' sottovalutando il fatto che doveva cominciare di là, ci è arrivato tardi e ci è arrivato per evitare un punto di IVA, quel punto di IVA che bisognava levarsi dai piedi effettuando la riforma strutturale delle cosiddette tax expenditure, cioè dei minori introiti fiscali da regimi di deduzione e detrazione che si sono caoticamente accumulati nei decenni per amici degli amici, più che per una ordinata visione di come debba funzionare il gioco incrociato delle detrazioni fiscali. E quei mancati introiti fiscali ammontano a 270-275 miliardi di euro l'anno per via delle centinaia di forme di deduzione e detrazione. Era una delle poche eredità positive del governo precedente. Non ho mai capito perché il governo Monti l'abbia messa da parte, perché con quella riforma organica di cui il rapporto Vieri-Ceriani, diventato anche poi componente di questo governo e appartenente a Banca d'Italia, aveva posto tutte le premesse pratiche, andava preso e andava fatta quella riforma. Si poteva fare in pochi mesi e dava sufficiente copertura non solo per aumentare il punto di IVA previsto quest'anno e anche nel 2014, ma per razionalizzare il welfare, dando più risorse per esempio alla famiglia, per dire, levandone alle imprese pubbliche, levandole anche ad alcune imprese private che secondo me non hanno buone ragioni per averle, e dando ulteriormente spazio quindi a copertura di nuove risorse, tipo quelle a cui ci si invece spinge oggi, cioè i nuovi esodati, perché una delle ragioni di questo governo, di questo taglio di ieri, è che bisogna coprire altri 55.000 esodati dopo l'errore del governo di aver limitato a 65.000 la cifra degli esodati. Allora, il governo ha detto in buona sostanza di mettere mano alla spesa per evitare il taglio dell'IVA. E poi per riparare ai propri errori, cioè gli esodati, poi per i costi del terremoto, e ci mancherebbe altro. Due osservazioni. Primo, non è chiaro quindi qual è l'ammontare ex ante di queste misure. Io avrei preferito saperlo, cioè un discorso chiaro agli italiani, e vado a concludere e andare al punto di oggi. Discorso chiaro agli italiani che dica: qui ci sono 7-8 punti di PIL a nostro giudizio, dopo che abbiamo esaminato per anni la faccenda di spesa corrente tagliabile in 3 anni con effetti non recessivi, ma, seconda osservazione, dovete sapere che il criterio con cui i diversi comparti devono compartecipare a questo taglio è per tutti commisurato a un trade-off, a uno scambio positivo, a uno scambio vantaggioso, che è quello di automatiche retrocessioni dai tagli di spese in meno pressione fiscale per più crescita sul lavoro e su impresa. Io credo che tagli di queste proporzioni servano per far ripartire l'Italia, ma devono essere dichiarati ex ante in maniera tale da evitare che altrimenti l'inevitabile esplodere di no, di veti, di contrasti parcellizzi il tutto, faccia perdere di vista l'obiettivo e a quel punto riduca questa operazione, un'operazione di immagine i cui effetti contabili di contenimento della spesa saranno molto inferiori. Soprattutto senza trade-off, con meno tasse e meno crescita, gli effetti purtroppo saranno ulteriormente recessivi quando già le cose vanno peggio. Questo è quello che temo io. La premessa di tutto questo è che il debito pubblico si cura con l'abbattimento attraverso patrimonio pubblico. Poiché non c'è né la prima cosa né la seconda, io faccio i miei auguri al governo, ma non sono convinto della filosofia e della metodologia di misure, perché oggi di tutto nel paese c'è bisogno, tranne che di nuova confusione, di dire che ci sono interventi da 26 miliardi quando sono di 7-8, si dice le province, nel decreto le province non ci sono e c'è il semplice rinvio all'attuazione della misura decisa nel Salva Italia di dicembre. Si scambia per spending review i 295 uffici giudiziari in meno, viva viva e batto le mani, che con la spending review non c'entrano perché sono attuazione di misure precedenti del governo precedente, ma va benissimo così. Sul tema dei dipendenti pubblici si dice 10% in meno, 20% in meno i dirigenti. La verità vera è che mi sembra anche questo un annuncio largamente terroristico, perché fino a che non si metterà a mano alle piante organiche a fine anno, queste sono grida manzoniane, e quindi benissimo che diamo l'idea alla gente che anche nel pubblico si muove qualche cosa, però temo che così semplicemente moltiplicheremo i centri di resistenza, perché il trade-off di positivo di crescita con meno tasse non c'è. Ora, abbiamo deciso invece oggi di trattare tutt'altro tema, perché siamo convinti che questo tutt'altro tema sia un po' colpevolmente trascurato, o meglio è affiorato nelle cronache delle ultime settimane con crescente e carsica sistematicità, perché parliamo oggi di banche, parliamo delle banche italiane di fronte alla persistente crisi dei mercati finanziari, ma parliamo della condizione delle banche come settore industriale, per così dire, dopo che abbiamo scoperto con crescente preoccupazione che ovviamente non bastava essere fuori dal sistema del modello di intermediazione anglosassone ad alta leva finanziaria, a bassa congruità patrimoniale, con molti prodotti tossici negli attivi. come con giusto vanto il sistema bancario italiano ha ripetuto di essere negli anni rispetto al modello anglosassone, ecco, non bastava questa caratteristica per evitare che poi i sistemi bancari fossero il primo sistema su cui si riverbera, si moltiplica, si amplifica la crisi dei mercati finanziari e degli spread. E del resto le banche incorporano il rischio sovrano dei rispettivi paesi. E, tra l'altro, lo spread sta salendo, stiamo tornando verso quota 4,70, attenti. Allora, di fronte a questo abbiamo, dopo 4 anni di tensione crescente del sistema bancario anche italiano, dalla fine dell'anno scorso è emerso come una delle 3 caratteristiche negative di questa crisi del 2012 quella del credit crunch, cioè della restrizione di credito a famiglie e imprese. Sono iniziate le prime polemiche quando poi, di fronte alle aste di liquidità a basso collaterale, a bassa qualità del collaterale, a tasso negativo della BCE, per fortuna offerte da Mario Draghi all'inizio dell'anno, le banche italiane hanno preso quasi un quarto di 1.1 trilioni di euro che quelle aste di liquidità hanno dato, e sono iniziate le polemiche dicendo: come avete preso tutti questi soldi alle aste di liquidità, però alle imprese e alle famiglie niente? Allora le banche hanno risposto dicendo: ma guardate che noi abbiamo le nostre obbligazioni in scadenza, guardate che dobbiamo riprendere a comprare i titoli del debito pubblico. Dopodiché, mese dopo mese, abbiamo iniziato ad apprendere che esiste un problema di forte presenza di esuberi nel settore. Monte dei Paschi, per via della sua ricapitalizzazione, è stato il primo ad ammetterlo, ed è anche la banca da cui proviene il presidente dell'ABI, Mussari, ha annunciato 4.500 esuberi, la chiusura di 400 sportelli, e subito dopo lo stesso Mussari, alla riconferma, ha dovuto dire: guardate che qui c'è un problema oramai di fondo del sistema bancario italiano. Ecco, è esattamente di questo che vogliamo parlare, per aiutarvi a capire e a riflettere un secondo sui temi che si addensano all'interno del mondo dell'intermediazione bancaria e finanziaria italiana, perché è un po' il sistema nervoso di ogni economia. Se non ci occupiamo di capire bene come funziona questo sistema, se è in ordine, come si può fare per renderlo più efficiente, trascuriamo il fatto che la conseguenza di un inefficiente modo di fare banking non può che condizionare negativamente tutto il meccanismo di crescita di un paese. Ecco, ne parliamo, abbiamo due ospiti di eccezione. Abbiamo innanzitutto Paolo Bordogna, che è partner di Bain per i servizi finanziari e coordinatore delle attività per l'intera Europa. Buongiorno e grazie a Bordogna. Buongiorno a tutti. E il professor Carlo Alberto Carnavale Maffè, che insegna strategia d'impresa e economia aziendale alla scuola di direzione aziendale della Bocconi. Buongiorno professor Carnevale. Buongiorno Oscar, buongiorno a tutti voi. Allora Bordogna, cominciamo da qualche riflessione comparata, per così dire, su come stanno messe le cose, prima di arrivare al nodo poi di capire esuberi, non esuberi, eccetera. Se diamo qualche indicatore ai nostri ascoltatori di come è il livello di efficienza, per così dire, comparato del nostro sistema, che cosa possiamo dire? Perché in realtà, se partiamo da chi ci lavora dentro, è un po' problematica la faccenda. Cioè, se noi adottiamo la proporzionalità tra numero di filiali bancarie in Italia per densità di popolazione e prendiamo la proporzione invece olandese, beh, noi ne abbiamo 55 rispetto a loro che ne hanno 17 per una stessa densità di popolazione. Ma questi criteri sono quelli giusti da seguire, oppure no, secondo lei? Ma allora, il sistema bancario italiano, come dicevi all'inizio, è comunque arrivato a un sistema di crisi da una strada completamente diversa rispetto all'Irlanda e alla Spagna, ma ha dei problemi. E questi problemi, secondo me, se prendiamo i punti fondamentali, poi se vuoi li lavoriamo, è un sistema che ormai da qualche anno ha una redditività in profonda riduzione, quindi passiamo da 30 miliardi di risultato operativo del 2007 a ormai 10 miliardi nel 2010-2011, una redditività degli attivi che ormai è inferiore all'1%. Come dicevi, una sovracapacità strutturale, quindi un raddoppio di sportelli dal 90 al 2008, siamo ormai a 35.000, a cui si aggiunge il Banco Posta, il doppio degli sportelli per abitante rispetto alla Germania, 4 volte l'Inghilterra, l'Olanda, un cost income per via dell'income in realtà, che passa dal 60%, un po' meno del 60% in medio di sistema, al 66%, quindi un impatto molto forte. Non dimentichiamoci che il sistema bancario ha in Italia è fatto da 600 grandi gruppi bancari, nonostante i primi 5 rappresentino la metà degli attivi, c'è una coda lunghissima, ed è fenomeno secondo me importantissimo, sempre più disintermediato dall'utilizzo di canali moderni, quindi di fatto in filiale ormai la gente ci va sempre di meno, le nuove generazioni in filiale non ci vanno, ci vanno in media due volte all'anno, e questo è un altro fenomeno importante che fa sì che la sovracapacità sia un fenomeno importante. Su questo ci aggiungiamo che comunque l'esposizione al debito sovrano è elevata, e quindi il rischio sul sistema bancario che viene dal debito sovrano potenzialmente è un qualche cosa di estremamente forte. Modelli di governance che non hanno favorito le vere ristrutturazioni interne, perché di fatto le grandi aziende italiane sono fatte da gruppi che sono spesso dei gruppi federati, e quindi le ristrutturazioni sono state fatte solo fino a un certo punto. Gli azionisti che non sono in grado, in una buona parte dei casi, di seguire eventuali aumenti di capitale, risultato, e qui mi fermo, difficile presentare una equity story, cioè una capacità di aumentare il capitale di fronte a una redditività che ormai è estremamente bassa, e quindi la leva costi, quindi la leva della ristrutturazione, la leva del togliere capacità produttiva diventa estremamente importante in questo momento. Una risposta a una domanda secca: c'è chi dice che in realtà i nodi del sistema si rivelano solo perché le banche si sono trovate a doversi finanziare a tasse più alte delle aziende, che è un po' un paradosso però, e che quindi la vera questione sia quella di ridurre questi costi straordinari, insomma il nocciolo dell'eurocrisi, perché non ha molto senso per esempio che il sistema bancario tedesco, con attivi di qualità non meno liquida ma forse più del nostro, in un quarto intero di sistema quello della Landesbank, si trovi tanto avvantaggiato da doversi invece finanziare a centinaia di punti base di costo inferiore rispetto a quello italiano. Chi avanza questa obiezione, secondo te Paolo, coglie solo un aspetto, quello dell'eurocrisi, ma fa finta di non guardare che c'è un nodo di cui occuparsi, cioè come abbiamo fatto il consolidamento bancario e come in ogni caso ce ne dobbiamo occupare, ce ne dovremmo occupare probabilmente anche se non ci fosse stata l'eurocrisi che è nell'acceleratore, oppure no? Assolutamente sì. Allora, sono due fenomeni diversi che ovviamente uno amplifica l'altro o lo nasconde. Allora, il fatto che siamo di fronte a un'industria che non, questo non è solo in Italia, io lo vedo in vari paesi, sia strutturalmente in sovracapacità, e che quindi si deve porre un problema serio su come reinventarsi, è un fatto che esiste. Il fatto di cui parlavi prima è invece un fatto di concorrenza non leale, se vogliamo dire, tra sistemi paese, cioè il fatto che le Landesbank abbiano dei problemi è un dato noto, il fatto che le banche italiane abbiano dei costi di finanziamenti più alti di alcuni dei loro clienti è una conseguenza del problema del rischio paese, e quindi è una simmetricità che oggi esiste e che esisterà finché il problema del sistema paese resterà sul tavolo, e questo penalizza ulteriormente. Ma il fenomeno di non sarà più come prima e adesso dobbiamo mettere mano alla capacità strutturale di produrre reddito del sistema bancario è un problema reale che esiste e resta sul tavolo, anzi. Dice Bordogna reinventarsi, reinventare il modo di fare banking, è uno dei temi classici di cui si occupa appunto Carlo Alberto Carnevale Maffè. C'è un modo, perché poi tratteremo anche l'altro, di impostare questa questione senza cominciare oppure ridurla al numero di esuberi e di esodati bancari? Poi ce ne occuperemo perché arriverà anche un sindacalista del settore, ma c'è un modo che non sia esclusivamente un placebo, ma che consenta di arrivare poi a un'ottimizzazione i cui effetti si vedano non solo nell'industria bancaria ma anche nell'economia del paese, secondo te Carlo Alberto? Certo, perché dobbiamo guardare il problema dal lato della domanda. Mi spiace dover ribaltare la prospettiva che ha proposto il collega, ma insomma mi tocca farlo visto che mi hai chiamato. Il tema non è la sovracapacità produttiva del sistema bancario, è la sottocapacità di generare i generi di servizi che servono alle imprese e alle famiglie. Il sistema bancario italiano, che è stato largamente isolato dai grandi contrasti gestionali che hanno invece fatto vittime in Europa, deve questa sua relativo isolamento a una sostanziale inefficienza nella gestione del rischio. Il rischio delle famiglie rispetto alla propensione, appunto, alla locazione dei loro risparmi, e il rischio delle imprese rispetto agli impieghi. Questa sostanziale inefficienza nella gestione del rischio ha salvato il sistema bancario. Certamente lo ha esposto di meno proporzionalmente alle come dire, malefatte, se posso dire, agli accessi di allocazione del portafoglio delle altre banche. E questo, vogliamo dire, ci ha in un certo senso consentito di non spendere come Stato troppi soldi per salvarlo. Qual è stato il problema, però? Questo torpore nella gestione del rischio non sta oggi rispondendo ai fabbisogni delle famiglie e delle imprese. Quindi il tema non è l'inefficienza rispetto a una capacità produttiva distributiva di prodotti standard, che è altissima, ma tutto sommato non incontra il mercato. Il tema è ripensare il sistema bancario, perché impari ad ascoltare i fabbisogni delle famiglie e a dare risposta, guarda caso, in supplenza a uno Stato che è in questo senso assente, esoso e, come dire, che manda segnali sconfortanti e poco rassicuranti, e la banca è istituzione che deve dare risposte alle famiglie e alle imprese rispetto a dove va il futuro, a dove va il fattore di rischio. Questa capacità di ascoltare il fattore di rischio delle famiglie, quindi di gestire il loro portafoglio di risparmio, da un lato, dato raccolta, e lato impieghi, di rileggere i bilanci delle aziende alla luce della nuova crisi, ecco, questa capacità va completamente sviluppata. Quindi non è il tema di tagliare quanti bancari. Posso dire che a me i bancari non ne servono più, mi servono, caro Oscar, dei banchieri. Aspetta, però, che sanno leggere. Aspetta, perché nell'entusiasmo tu getti delle belle mine di quelle, perché se dici a me dei bancari, poi in realtà non mi servono più, mi servono i banchieri, beh, vuol dire che ne mandi a casa tanti i bancari. Non voglio cominciare da quello, ma questo è un problemino non da poco, per così dire. Un'altra questione di fondo, questa è un po' tecnica, però bisogna toccarla per forza, e quindi chiedo Paolo Bordogna: siamo reduci da sfinenti confronti da quando la crisi è cominciata, cioè da quando c'è stata la prima parte della crisi, quella degli eccessi di consumi privati finanziati ad alta leva dalle banche, per poi arrivare a questa seconda importante parte che l'Europa regala al mondo sugli eccessi di consumo pubblico finanziati dai mercati, ma uno di questi temi è quello di come si rinforzano le banche, cioè che cosa devono fare le banche? Devono ridurre gli attivi o devono aumentare il capitale? Perché poi in definitiva la scelta è sempre questa quando le banche sono fragili, e naturalmente questo significa le decisioni prese dai regolatori europei, la resistenza che c'è stata in Italia forte a ricapitalizzare sul serio dopo Unicredit le altre grandi banche. Abbiamo regolato centinaia di punti base, dico regalato, è un verbo disinvolto, da parte di Banca Italia, non me ne vogliano in Banca d'Italia, ma per far capire a chi è a casa, abbiamo regalato invece di aumenti di capitale punti base secondo criteri matematici interni di valutazione degli asset a rischio degli attivi bancari, perché ci faceva paura fare aumenti di capitale, è vero, non volevamo fare diluire le fondazioni, diciamolo chiaro. Però naturalmente quando non si fanno ricapitalizzazioni vere, allora l'altra modalità resta in buona sostanza quella di ridurre gli attivi. E questo in un quadro in cui nelle grandi banche poi talvolta anche meno della metà del bilancio è dedicata al retail e ai prestiti commerciali, perché il resto è al servizio più dell'investment banking, di capital markets, pone un problema di ordine generale. C'è uno specifico problema italiano, chiedo a Bordogna, su questo di questo bivio tra ricapitalizzazioni vere oppure inevitabili riduzioni degli attivi. Non c'è qualche riflessione da fare anche sulla strada che sta seguendo l'Italia, invece che essere recalcitrante di fronte agli aumenti di capitale, non sarebbe giusto perseguire autonomamente come regulators nazionali, non chiedo un giudizio di Banca d'Italia, dico dal punto di vista teorico, nell'interesse delle famiglie e delle imprese italiane, non è meglio che le banche italiane si ricapitalizzino persino di più di quello che chiedono i mercati, invece di dire no, questa è una cosa impropria che ci viene chiesta? Ma guarda, come tu sai, io sto seguendo anche molto da vicino il tema della Grecia, che è completamente diverso, però in parte il tema della Spagna. Il problema è comunque centrale, quello che poni sul tavolo tu, perché è evidente che, prendiamo l'Italia, il fatto che comunque a fine giugno si dovesse rientrare su quelli che sono dei parametri che sono stati misurati dall'EBA ha condizionato in un certo senso le attività delle banche italiane, le quali hanno chiaramente scelto tra i vari possibili opzioni quelle che più gli riuscivano per poi arrivare, e sono ovviamente andare a verificare possibili aumenti di capitale, ma al tempo stesso andare a vedere come questo capitale viene misurato, e quindi un sistema, se vuoi, più contabile per entrare all'interno di questi parametri. Detto questo, io lo vedo in Grecia, lo vedo in Spagna, lo vedo anche ovviamente in Italia, la capacità delle banche di dare una risposta reale, un supporto reale al sistema paese è legata alla capacità di fare impieghi, e questo è legato ovviamente a questi parametri, quindi hai ragione, nel senso che di fronte a un'eventuale crisi prolungata, che ovviamente è qui, quindi inutile che stiamo a dire che non c'è, in realtà c'è bisogno di capitale vero, e questo, siccome le banche italiane hanno un tallone d'Achille, che è la non capacità spesso degli azionisti di riferimento di poter seguire un progetto di medio e lungo periodo, punto numero uno. E punto numero due, che però che è importante, il fatto che non si riesca a garantire un ritorno su questo investimento perché le banche non hanno utili, crea un problema oggettivo da cui è difficile uscire. Allora, eccoci qui tornati, stiamo parlando, alcuni ascoltatori dicono non esagerate con le cose tecniche, fateci capire solo se esiste un modo in cui ragionevolmente si può alleviare la sofferenza delle famiglie, delle imprese italiane, visto che, ripetete da mesi, ed è vero, è uno dei temi ricorrenti delle migliaia di lettere, abbiamo dedicato, come continueremo a fare ogni tanto, una puntata scegliendo in alcune migliaia di lettere di piccoli imprenditori che con la campagna di Radio 24, Disperati Mai, ci hanno consegnato questa descrizione angosciosa, purtroppo va usato questo aggettivo e non è esagerato, di una condizione di tensione in cui da una parte il rapporto con lo Stato e le tasse, la loro pretesa cresciuta, dall'altra i cattivi pagatori, ma l'aspetto centrale è anche quello del rapporto con la banca. Banca che chiede oramai da metà 2011 sempre più rientri, fine dei castelletti finanziari, nessun più discrimine nell'esame dei progetti a fronte a cui dare finanziamenti. Ecco, caro Alberto Carnevale, dicevi, io ho bisogno di banchieri perché devono esaminare anche le modalità in cui stare a fianco alle imprese, modalità che possono voler dire essere vicini non all'impresa in quanto tale per finanziarla, ma magari a un progetto, a un aspetto. Devono essere capaci di far venire al piccolo imprenditore che magari non ha titoli, non ha studiato, eccetera eccetera, devi fargli venire in mente l'idea di una cosa che può fare pur non essendo il suo consulente, perché lui in realtà non ha neanche i soldi per avere un consulente. È pensabile davvero fare una rivoluzione di questo tipo? Che è pensabile, Oscar, è necessario. È necessario perché un qualsiasi dibattito sui criteri patrimoniali non può che dipendere dalle norme, dalle regolamentazioni, ed è esogeno, quindi c'è poco da discutere, sono dati che ci arrivano o dai regolatori centrali o da Banca Italia, e ovviamente risulta ostico ai nostri ascoltatori. Invece il tema del servizio, di come si fa banking, no? Di come si ascolta il cliente, famiglia o impresa, e di che risposte si danno, questo è il tema centrale di oggi, non calcolare gli esuberi, ma il mestiere di fare banca, Oscar. Nel caso delle imprese si tratta di riprendere quell'antica prassi di comprensione delle dinamiche economiche, di quelle del ciclo, degli investimenti, che gli imprenditori avevano quando entravano nella vecchia filiale col vecchio direttore, che aveva forse vecchie orecchie, ma le aveva le orecchie. Invece oggi i moderni modelli di valutazione del rating sono delle macchinette tritacarne di numeri, nel quale si infilano dentro un po' di bilanci e salta fuori un rating compatibile però con Basilea del numero che scegli tu, te lo lascio, ok? Ecco, se questo è il tipo di ascolto che ricevono le imprese, chiaramente non andiamo molto lontano. Io sono nel consiglio di amministrazione di molte imprese e ti assicuro che il livello di ascolto che ricevo nella stessa impresa che ha sede in Italia e in Germania è diverso. Il che vuol dire che semplicemente non ci basta giustificare la differenza dello spread. Lo spread è uno spread di professionalità che va colmato. E sia chiaro che il mio è un appello al cambiamento profondo della professionalità delle banche, non è un appello a fare a meno della banca. Ci mancherebbe altro che un'economia possa fare a meno della banca, anzi ha bisogno di una banca molto più performante di oggi. Stesso discorso per le famiglie. Le famiglie sono state oggetto di distribuzione massiva da parte delle filiali, incentivate a fare ciò. Ecco, questo modello deve cambiare, bisogna portare ascolto, vogliamo chiamarla consulenza, è una parola un po' abusata, mi basta servizio, mi basta ascolto della propensione, della mutata propensione al risparmio e al rischio delle famiglie italiane. Ecco, mettere insieme raccolta e impieghi, che è l'antico mestiere del banking, che non può cambiare perché è esattamente il compito che le istituzioni affidano alle banche, questo mestiere va ripensato. In questo senso mi servono banchieri piccoli e grandi, di città, di quartiere o nazionali, ma banchieri e non bancari, operatori di processi burocratici che francamente non sono stati capaci, e dovranno diventarlo, di essere al servizio dei fabbisogni di futuro, perché questo è il banking, no? Il banking è una grande fabbrica di futuro delle famiglie per i loro risparmi, di futuro delle imprese per i loro investimenti. Allora, iniziamo con Luciano da Roma, ascoltatore, credo bancario, ho capito bene? Sì, sì, bancario della vecchia generazione, come diceva adesso il signore che interveniva. Sì. Mi permette innanzitutto una cosa al volo. Io la mattina accendo Radio 24 perché c'è, tra l'altro, perché c'è la sua trasmissione, Giannino, quindi altro che danneggiare la radio. E la chiudo qui. Andiamo a due, esatto. E la chiudo qua. Dopodiché c'è un problema nelle banche, che è un problema di generazione, di culture, di mentalità dei dipendenti. Non dimentichiamo e parliamone una volta per tutte. Ci portiamo appresso pezzi di 68 nelle banche. Io ci ho passato 27 anni e c'era e c'è ancora la cultura delle mansioni. C'era il mansionario. Yeah. Cosa mi compete fare? Questo e questo. Basta, non sposto la penna di un centimetro. Perché le banche li vogliono esodare? Perché un capo ufficio oggi alla banca gli costa un occhio della testa e il livello di produttività di un capo ufficio con quella mentalità è zero, perché non fa niente altro che quello che gli dicono di fare. È il dramma del lavoro e dello stipendio garantito che ci massacra. Luciano, non troviamo il coraggio di parlarne. Ne parleremo tra poco con un sindacalista. Io ho anche l'idea che ci sia un problema organizzativo dall'alto, cioè l'organizzazione delle fabbriche di prodotti finanziari rispetto alle reti distributive nei grandi gruppi bancari italiani, ma poi è stata replicata anche fino quasi ai più piccoli. Ha avuto un problema, cioè la standardizzazione degli incentivi attraverso cui le reti bancarie poi hanno dato i prodotti alle famiglie, esattamente quello che diceva adesso Carlo Alberto Carnavale Maffei, una specie di massificazione delle propensioni al rischio e della parte di reddito disponibile che è diversa da famiglia a famiglia, individuo a individuo, e che ha bisogno naturalmente di una valutazione, di una comprensione, visto che siamo un paese anche di analfabeti finanziari, entriamo tutti in caos e complicazione per fare una banale operazione reddito annuo composto. Cioè, ecco, aveva bisogno non tanto di massificazione. Poi c'è stata la possibilità di fare quello e di fare anche begli utili per le banche complessivamente negli anni facendo così. Adesso, di fronte alla gravità di questa crisi, dopo anni che ci colpisce, dopo questa moria di piccola impresa che secondo me dai provvedimenti poi presi anche da questo governo viene ulteriormente accresciuta, e mi dispiace dirlo senza confondere le responsabilità con i governi degli anni precedenti che sono largamente preeminenti, adesso però è il momento di capirci, di guardarci negli occhi sul sistema bancario. Io sono dell'idea per esempio che un governo serio dovrebbe lanciare un fondo di ristrutturazione del sistema bancario, perché esiste il problema quando la redditività diventa tendenzialmente negativa, come ci ha detto Paolo Bordogna all'inizio, di un settore come quello bancario, quando esiste un forte problema di patrimonializzazione, quando c'è un cost income che schizza verso il 70%, allora bisogna avere l'idea che questa è un'industria nazionale da avviare a una ristrutturazione. Fare finta di niente significa mandare le banche, quelle che vanno nei guai e di cui abbiamo diluito la capitalizzazione per fare un favore alla compagnia di Siena, sto parlando di MPS, saranno solo quelle che vanno nei guai le prime che buttano fuori la gente, ma andranno tutti dietro, è inutile che ci illudiamo, creeremo decine e decine di migliaia di nuovi disoccupati da quello. Per essere chiari, se noi adottiamo il criterio olandese in Italia di proporzione tra mattoni, dipendenti e popolazione, ce ne sono 120.000 di bancari di troppo. I numeri sono questi, quindi l'idea è che ci vuole un sistema cooperativo di ristrutturazione, ma bisogna cambiare mentalità organizzativa. Diceva il nostro ascoltatore bancario, pezzi di 68, sì, ma io credo che ci sia un forte problema organizzativo dall'alto, se vogliamo pensare a un sistema bancario che guarda la specificità della propensione al rischio e del reddito e del forte patrimonio degli italiani da una parte e dall'altra la specificità della piccola impresa italiana che è fortissimamente nei guai, che non ha bisogno di una mano con le banche che ci rimettono i soldi, ha bisogno di criteri attraverso i quali si incrocia la domanda e l'offerta nel reciproco interesse, cioè perché quelle piccole vivano per tornare agli utili e la banca non ci rimetta però chiedendoti di chiudere il cliente di oggi ma la sua redditività domani. È un'equazione complessa. Ci ha raggiunto Giuseppe Gallo, che è il segretario generale della FIBA CISL, e gli chiedo fuori dai denti, esiste a oggi uno strumento cooperativo, se il governo si decidesse a, diciamo così, impostare con il sistema bancario in maniera preventiva un sistema di indirizzo, di aiuto per la conversione del sistema bancario, da una parte ammortizzandone i costi, per così dire, i costi, anche se in termine brutto, comprendono naturalmente anche gli eventuali esuberi, e dall'altra però intavolando un confronto con le aziende bancarie su le specificità di un modello di fare banca necessarie per il paese in questa crisi. Esisterebbero già oggi gli strumenti o bisognerebbe dotarsene di altri, cioè gli strumenti cooperativi a disposizione della categoria di tipo bilaterale tra dipendenti e banche, sarebbero in grado oggi di assorbire decine di migliaia di nuovi esuberi delle aziende bancarie italiane? Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. La categoria dispone di uno strumentario di ammortizzatori sociali di grandissima efficacia. Peraltro vi ricordo che noi il 4 giugno del 97, col primo governo Prodi, con l'ABI e Federcasse, facemmo il protocollo di riposizionamento strategico del settore bancario che consentì di uscire dalla crisi di metà degli anni 90. Oggi quello strumentario l'abbiamo enormemente potenziato. Noi abbiamo la cassa integrazione autonoma, abbiamo il fondo di prepensionamento che è in grado di accompagnare la pensione a lavoratrici e lavoratori nei limiti dei 5 anni al raggiungimento del requisito. Abbiamo il fondo emergenziale, una sezione che se il lavoratore giovane non può essere prepensionato, per 2 anni gli dà la disoccupazione, lo riconverte, lo riqualifica e lo consegna a una società di outplacement. Nell'ultimo contratto, 19 gennaio di quest'anno, abbiamo creato il fondo per creare occupazione, uno strumento di assoluta solidarietà, non costa nulla alle banche, contribuiscono i lavoratori con una giornata e il top management col 4%, strumento anticiclico per assumere. Abbiamo tutta la strumentazione per affrontare crisi, ristrutturazione e per andare controcorrente anticiclica creando occupazione. Ma allora come mai l'ABI parla di l'adozione di licenziamenti collettivi da parte di numerosi istituti, oppure in una grande banca come il San Paolo l'azienda dice disdettiamo il contratto aziendale? Ma per una ragione paradossale, che il settore è quello che si è dotato di ammortizzatori autonomi tra i più efficaci in assoluto, che non pesano nulla sul bilancio pubblico, perché sono tutti ammortizzatori autofinanziati fra banche e lavoratori. Il grande paradosso: arriva la riforma pensionistica, peraltro la riforma del ministro Fornero, e io continuo a chiedermi in quale sezione dell'iperuranio platonico abbia soggiornato il ministro durante gli anni della sua permanenza alla vicepresidenza del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo. Certo non la sezione in cui si contemplavano gli Eidos o l'usia delle banche, perché di va bene. Per conseguenza è molto semplice: la riforma pensionistica costringe i lavoratori che sono già nel nostro fondo a permanere sino a 62 anni. I nostri accordi prevedono una permanenza sino a 60 anni, 5 anni, verrebbe prolungata a un massimo di 7 anni. È chiaro che ci va ad alterare tutti gli equilibri dei costi sui quali abbiamo impostato i piani industriali. Secondo effetto pro futuro, sì. I futuri lavoratori che avrebbero dovuto uscire con i piani industriali entro il 2015 non potranno uscire in virtù dello slittamento delle finestre pensionistiche. Ne abbiamo 3.850 in Intesa San Paolo, 2.700 in Unicredit, quasi 7.000 nei primi due gruppi, verosimilmente 10.000 nel settore. È chiaro che una riforma di questo tipo e la gestione dissennata degli esuberi ha un impatto devastante sul nostro ammortizzatore. Certo. Ad abbondanza, ma aggiungo soltanto che noi l'8 luglio dell'anno scorso, 2011, abbiamo ulteriormente migliorato il nostro ammortizzatore, introducendo solidarietà difensiva ed espansiva, con le quali noi riusciremmo a governare anche le ricadute perverse della riforma Fornero. Ma per utilizzare i nuovi strumenti il governo dovrebbe mettere un decreto, lo aspettiamo da un anno e la degnazione decretizia non è ancora arrivata. Ecco, da un lato devasta, dall'altro ci impedisce di usare gli strumenti concordati fra le parti attraverso le quali governeremo anche gli effetti negativi. Allora, l'effetto un po' paradossale di interventi a piedi uniti di questo tipo è quello, ovviamente, che chi ha un welfare bilaterale con meno Stato, che ha preordinato per poter reggere gli impatti di governo dei fenomeni anche di eccessi eccetera, da interventi più uniti di questo tipo diventa più dannatamente complicato. Sentiamo Andrea D'Alessandra come la pensa. Caro dottore, la ringrazio di avermi contattato. Io volevo solo rallacciarmi alla necessità di banchieri invece che bancari. Sì. Io che sono un imprenditore che ha partito, ripartito, venduto azienda di famiglia, riparito da zero, poi portato un'azienda a 1000 dipendenti, rivenduta e riparto adesso con altre due aziende per crescere, credo, in questo paese, pensando che la produzione, la crescita produttiva genera benessere, sì, genera ricavi. Mi chiedo come le banche, che abbiano seguito un'evoluzione verticistica, espressamente le grandi, di involuzione politica, oggi non sono più un attore di sviluppo produttivo, ma pensano più a prendere soldi e rifinanziare il debito dello Stato. C'è la Banca d'Italia che manda una circolarina dopo le aste di liquidità, e le banche italiane hanno ripreso a comprarli al ritmo di quasi 30 miliardi al mese, per questo che gli spread stavano sotto controllo. Io sono d'accordo, per me il programma di repressione fiscale per cui devono essere gli intermediari le famiglie italiane a concentrare la tesoreria del debito è sbagliato, perché aumenta l'effetto di crowding out sull'economia, ma io sono minoritario, caro il mio Andrea. Invece qui tutti pensano diamo tutto il debito agli italiani e alla fine vi chiederanno anche il vostro patrimonio privato per rispondere al problema del fatto che non vogliono abbattere il debito pubblico col patrimonio dello Stato. Mi dispiace, io su questo sono molto deluso dal governo Monti e prevedo che la spending, cioè la revisione della spesa cominciata ieri, sia una cosa per farsi un pochino la bella faccia. Io darò una mano, ma non sono d'accordo su come è fatta, sul fatto che non si capisce prima perché e sul fatto che non c'è il trade-off con meno tasse per più crescita per tutte. Solo questo vincerebbe le resistenze. Grazie a Paolo Bordogna, grazie a Carlo Alberto Cannavale Maffè, grazie a Giuseppe Gallo e a tutti voi. Con noi appuntamento, per chi vuole, a lunedì.